La scelta nostra è stata sempre quella di rivolgersi a titoli con il massimo grado di affidabilità in questa fase perché ritenevamo e riteniamo che, a parte queste giornate qua, siano i mercati azionari quelli dai quali si dovrebbe cogliere una maggiore redditività, si dovrebbe, fra virgolette, perché adesso la situazione è un po' Ma quindi lei sta complessa. dicendo che lo Stato spagnolo non è così affidabile? Non è che non sia così affidabile, io ho l'impressione che nel corso dei prossimi mesi le quotazioni di questi titoli possano subire ulteriori cali perché la speculazione ha ancora gioco facile ad attaccare questi debiti. Le spiego anche perché Spagna, Portogallo e Grecia in particolare non hanno un tessuto industriale tale che consenta loro una crescita di un certo rilievo, quindi difficilmente potranno rientrare in tempi brevi dal debito che hanno, dal debito sovrano che hanno, quindi o metteranno delle tasse molto alte, non è così facile in una fase come questa, oppure difficilmente vedremo l'uscita dal tunnel di questa situazione. Non dico che vadano in default, per carità, però dico che secondo me le quotazioni potrebbero scendere ancora. Se noi guardiamo la Grecia, ad esempio, il rendimento a cui è arrivato oggi, quello che faceva riferimento, solo qualche tempo fa era di poco superiore alla metà, era poco più del 10% il titolo. Ecco, ma mi dica un'ultima cosa, ho capito che lei dice, insomma, la Spagna non ci fidiamo, ed è bene che ce lo dica anche in onda, ma quando uno Stato come la Grecia offre il 20% di rendimento su un BTP a 2 anni, ogni anno, che è un livello da strozzinaggio, se fosse un privato, allora o uno ha in mente chissà che cosa per cui pensa di guadagnare così tanto da poter ritornare il 20% di interesse ogni anno, oppure è tecnicamente fallito come è stato, quale delle due? Ma fallito non ancora perché c'è la l'UE che dovrebbe, l'Unione Europea che dovrebbe evitare che ciò accada. Ovviamente un rendimento del 20% lascia intendere che i rischi che il mercato attribuisce a questi titoli sono abnormi, non enormi, sono abnormi, sono rilevantissimi. Quindi come si può investire in questo tipo di titoli? Se si ha una fortissima propensione al rischio oppure se si decide di mettere una quota molto modesta del proprio patrimonio, una sorta di scommessa per vedere se nell'arco di questi anni la Grecia riuscirà a fare quelle manovre che consentiranno alla Grecia stessa di rientrare nel rapporto deficit-PIL. Sarà un po' più complesso il rientro del debito totale, però il deficit PIL potrebbe anche rientrare a condizioni però che la Grecia cresca. Io l'ho detto prima che secondo me la Grecia, come gli altri due paesi, cioè Portogallo e Spagna, hanno un tessuto industriale troppo modesto perché si possa rientrare in tempi brevi di un deficit così alto.